piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo. Te lo meriti, Alberto Sordi. Ciao. Quanto ce lo meritiamo, Alberto Sordi? E quanto siamo contenti di meritarci Alberto Sordi? O quanto ci piace oggi, nel giorno del centenario della nascita di Alberto Sordi, in cui viene celebrato in tutti i giornali e già da giorni è celebrato in quasi tutte le televisioni, quanto noi ci sentiamo rappresentati da Alberto Sordi? Questa è una frase famosa presa dal film Ecce Bombo di Nanni Moretti, un film che segnò uno spartiacque nel nostro cinema nazionale, il film della generazione post-sessantottina, con tutte le contraddizioni, con tutti gli aneliti frustrati, con tutto il mondo che cambiava rapidamente, senza che avessero poi possibilità di sentirsi protagonisti di quel cambiamento. Un film che fece molto discutere al tempo, un film che segnò l'inizio di una certa filmografia, un film che doveva essere lo spartiacque appunto fra l'Italia di Alberto Sordi e l'Italia che sarebbe venuta dopo. Noi ci troviamo a distanza di parecchi anni, era del 78, Ecce Bombo, ancora a interrogarci su Alberto Sordi. In una maniera, devo dire, piuttosto asettica. Oggi si parla di Alberto Sordi come ormai una iconografia non più legata a una realtà attuale. Si parla dell'epica di Alberto Sordi, si parla dei personaggi di Alberto Sordi, si analizza quello che è stato Alberto Sordi, quello che ha interpretato Alberto Sordi, come se non ci fosse più nessuna possibilità nel sentirsi noi intimamente, profondamente e soggettivamente ancora intrisi di Alberto Sordismo. O Alberto Sordi era fondamentalmente un attore, quindi non necessariamente lui era i tantissimi personaggi che ha interpretato. Porrebbe un indiscusso grandissimo merito, un po' dato dalla sua capacità interpretativa, un po' per il fatto che fu diretto da il fiorfiore dei registi che ebbe l'Italia negli anni a cavallo tra il dopoguerra e, diciamo, i primi anni Ottanta, Comencini, Monicelli, Risi, Fellini, Zampa. Insomma, ci furono un insieme di registi che individuarono in lui la persona duttile, sufficientemente capace di articolarsi in diverse tipologie, capace di esprimere quello che era un concetto dell'italianità. Un momento di passaggio, guardate, molto complicato e difficile, difficilmente riferibile alle generazioni meno attempate. L'Italia usciva da un momento drammatico quanto controverso, un dramma che la maggior parte degli italiani voleva rimuovere perché se ne sentiva intimamente, profondamente e sinceramente coinvolta e anche partecipe e colpevole. Gli italiani sapevano benissimo che l'avventura del fascismo, della guerra, del disastro c'era stato, veniva distribuita come responsabilità parimenti nella maggior parte degli italiani. E riuscivano però con l'idea, con un sogno che offuscava, cambiava tutto quello che c'era stato, lo confondeva in una sorta di anelito di cambiamento. E questo periodo lo posso dire bene perché l'ho vissuto consapevolmente, era il periodo della mia fanciullezza, dei miei primi anni, osservavo il mondo molto lucidamente, ho un ricordo vivissimo di quegli anni, degli anni che vanno dalla seconda metà degli anni 50 in poi. Il mondo si sentiva che cambiava, noi ci avvertivamo che c'era una sorta di modernità legata ad alcuni simboli che per noi erano fondamentali, la realizzazione sintetica e tutto ciò che era naturale, quindi i cibi e gli alimenti sintetici, la tecnologia che sembrava promettere mondi inenarrabili, il modello dell'America che sembrava il faro che doveva illuminare ogni nostra esistenza. E in questo avevamo dei genitori ancora fortemente legati a un mondo arcaico, pieni di nostalgia o pieni di senso di rivolta e di ribellione, a seconda della antitetica e manichea ideologia che venivano rappresentate nelle nostre famiglie. E in questo ci stava perfettamente Alberto Sordi. Alberto Sordi era i nostri padri, i nostri nonni, i nostri zii, i nostri insegnanti, le persone che conoscevamo. E noi tutti sentivamo anche dei piccoli Alberto Sordi, quei bimbi minchia, piccoli, viziati, banalmente cretini, che erano i figli di Alberto Sordi nelle sue innumerevoli rappresentazioni. Oggi è un po' difficile parlare di Alberto Sordi, perché non c'è un equivalente, anche se ci sono molti suoi, diciamo, dichiarati successori, Verdone, ma però fa un italiano molto legato alla romanità e molto legato a una sorta di psicopatologia che è sempre stata più evidente, e Checco Zalone, che rappresenta comunque il meridionale, non è l'italiano in assoluto. Alberto Sordi a tutto tondo era l'italiano pieno di queste contraddizioni. Oggi tutti diranno che è stato geniale, tutti lo dicono, ha rappresentato perfettamente noi nelle nostre miserie e nei nostri splendori, nelle nostre meschinità, nelle nostre piccolezze, nei nostri improvvisi sprazzi di altruismo, di eroismo, di gloria, nella nostra meschinità interiore. Ma quello che propongo questa mattina è non fare una celebrazione di Alberto Sordi, se no avrei chiamato Sansonno, degli esperti in cinema, io non sono un esperto in cinema, ma fare un'operazione di sincera introspezione. E quanto c'è in noi di Alberto Sordi? Oggi ognuno di voi vorrei che si dicesse: io sono stato Alberto Sordi in questo frangente. Io mi riconosco figlio di Alberto Sordi o rappresentabile di Alberto Sordi in questo frangente. C'è stato un momento di grande vigliaccheria o di grande improvviso eroismo, momento di meschinità, un momento di nascondimento rispetto a quello che siamo, di vorrei ma non posso, di rappresentazione e di fuga dalla realtà, di improvvisazione in cui vi siete sentiti Alberto Sordi. Beh, come sempre vi do 30 secondi, che è la misura aurea per poter esprimere sinceramente una propria sensazione che magari mai si è avuto coraggio di raccontare a qualcun altro. Quindi 30 secondi, io sono Alberto Sordi, 800240024, vi aspetto. Ho sognato che ero rimasto vedovo. Ah, sognato che era morta la sua? Sì, mia moglie. Un sogno completo, morte, camera ardente, funerale, io camminavo dietro al feretro, alla mia destra camminava lei, marchese, e alla mia sinistra padre Agostino. Perbacco, ricorda tutti i dettagli? Sì, come fosse adesso. E nel sogno ho provato dolore? No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo. Rideva. Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca, tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse padre Agostino, e invece mi sono svegliato nel mio letto, era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti, ridi nel sonno. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800240024, mi rendo conto che l'operazione è difficile, bisogna smontare l'immagine che abbiamo creato di noi stessi verso il pubblico che ci osserva, che è la nostra famiglia, i nostri colleghi, le persone che frequentiamo. Ma io stesso posso fare questa operazione senza reticenza. Sono Alberto Sordi nella spudoratezza di mostrare il mio Alberto Sordismo. Voi mi conoscete in quanto parlatore alla radio, raccontatore quotidiano, sono 40 anni quasi che parlo alla radio, anche se questo a molti può stare, può essere fastidioso, ma io ho cominciato a fare questo mestiere con un gesto da perfetto Alberto Sordi, millantando, fingendo, rappresentando me stesso che non ero. La storia è nota, è arcinota, ma fu veramente Alberto Sordi quel giorno dell'estate 1983 in cui entrai per la prima volta nel palazzo di vetro della Rai di Viale Mazzini, per puro caso. Ero, diciamo, il famiglio di una mia cugina più altolocata che andava lì a firmare un contratto. Venivo dalla provinciale Perugia, ero vestito di merda, mi ricordo, avevo dei pantaloncini, pantaloni di e tessuto sintetico trasparente che lasciavano trasparire le mie mutande marroni. Era orribile quella roba, una camicetta orribile a maniche corte. Era un burino di Perugia che andava a Roma perché aveva vinto un concorso del Ministero degli Esteri, mi ero da poco laureato, sarei dovuto andare a Barcellona a fare un tristissimo biennio da insegnante di italiano, ma lì sarebbe cominciata una mia misera carrierina in cui magari avrei potuto in qualche maniera ambire un posticino nell'università. Avevo studiato malissimo, ho passato 10 anni per laurearmi, perché ho fatto il vitellone per 10 anni, ho bruciato 10 anni della mia vita, quindi sono stato vitellone per 10 anni in una città di provincia in cui il vitellonaggio era naturalmente l'attività preferita, avanti, indietro, lungo corso Vannucci, a pensare, immaginare, proporre, occhieggiare, immaginare chissà quale fantastico futuro, in realtà limitarsi a uscitine sporadiche e consumazioni veloci con le studentesse della Casa dello Studente, che venivano da generose regioni, che erano le Puglie, che erano la Sicilia, che erano le Marche, che erano ben disponibili ad abbandonare il loro pulzellaggio genetico proprio in quel momento di impazzimento in una città di studenti. Beh, mi trovai in quell'ambiente, non avevo nulla a che fare e con l'altezzosità e il millantato credito proprio di un provinciale si crede d'essere sto cazzo e non è nessuno, ingaggiai una chiacchiera con una signora che mi fermò in un corridoio mentre aspettavo mia cugina, che poi scoprì essere una potentissima capostruttura, Lidia Motta, una donna fantastica, e parlai del più del meno raccontando, come racconto alla radio, facezze di vario tipo. Evidentemente le piacque, era una donna molto intelligente, cercava delle diversità, aveva tutta una serie di persone che faceva lavorare, che venivano dai vari approvvigionamenti di programmisti, registi, di voci della radio, che erano CL, e molti venivano mandati da Cacciari, molti da Asor Rosa, molti mandati da Via Botteghe Oscure. Ogni tanto voleva qualche matto. E prese me, mi scelse, mi chiamò, mi fu scritto di mandare un curriculum, non ho mai fatto niente di utile nella vita, mandai un finto curriculum con attestati falsi di mie attività giornalistiche, ma tanto me ne sarei andato a Barcellona. Mi fu chiesta ancora di più una malleva, perché era importante una malleva di tipo politico, non avevo nessun amico che contasse, scrissi una finta lettera di uno zio arcivescovo che non ho mai avuto, la mandai. Il mio illustrissimo nipote, di spiccata moralità, di grande senso religioso. Beh, mi assunsero, mi fecero il primo contratto di 9 mesi, mandai un telegramma a Barcellona, lasciai tutto quello per cui avevo male studiato, ma comunque impegnato gran parte della mia vita studentesca, buttai le ortiche, una bella laurea che avevo preso dopo 10 anni di sfaccendamento parauniversitario, iniziai a fare questo lavoro e oggi mi trovo ancora a farlo. La mia vita professionale iniziò con un gesto di Alberto Sordi. È risaputo, ma qui con grande vergogna o con grande orgoglio lo dichiaro. E vorrei che anche voi faceste lo stesso. Ecco, sono pronti i primi pronti a confessare di essere Alberto Sordi. Lucio, provincia di Rimini, sei pronto? Sono pronto, prontissimo. Devi dirmi in cosa tu sei Alberto Sordi. Io ho fatto la mia confessione, fa la tua, 30 secondi, vai. Io faccio la mia. Allora, nella Grande Guerra, il militare Alberto Sordi, io paracadutista, codardo, nel quale con un grande sforzo ho dato il mio contributo al paracadutismo, alla mia leva, dopo varie vicissitudini. Tutto qui. Mi sento molto Alberto Sordi. Fermo là, adesso non ti mollo, ma me lo devi raccontare bene, perché anch'io sono stato paracadutista, sportivo, non militare, perché avevo un fisico di merda e non avrei potuto fare, ma feci attività sportiva per sfida e desiderio di intrepidezza, proprio per battermi contro la mia natura in realtà pantofolaia e reclusiva. E tu, diciamo, era l'antitesi del tuo modo d'essere fare il paracadutista, eppure l'hai voluto fare, perché? Io l'ho voluto fare per dare una dimostrazione un po' a tutti. Mi sono... Ma non c'avevi il fisico, cioè non eri... No, non eri, no, diciamo, io ho superato le prove. Toglietemi per fisiche. Favore lo studio di Roma deserto e desolato dal video che si vede, mettete la mia augusta figura, avvertimento alla regia. Prego, prego, vai avanti. Allora, ho superato le prove fisiche che c'erano, poi io ho rifiutato per cordia. Poi alla fine, dopo due mesi, sono andato dal mio comandante in compagnia, gli ho detto di rifare tutte le prove e di rifare tutto. E poi ho fatto i miei lanci, ho fatto, cioè sono entrato nel corpo, ero nella nona... Comunque ce l'hai fatta, diciamo, tu in realtà potevi fare il fantaccino, se no di fureria, in realtà hai voluto fare il paracadutista massiccio, incazzato, forte e spavaldo, ci sei riuscito però. Ci sono riuscito, ma ho dovuto fare un grande sforzo di volontà e... Perché non c'è ritagliato, non c'è ritagliato. Non lo so. Vabbè, c'ha ragione, come la Grande Guerra, in effetti c'ha ragione, la stessa cosa. Un vigliaccone che ha fatto salti mortali per non fare il militare, però alla fine si trova a gioco forza, trascinato anche dal suo commilitone, altrettanto vigliacco, altrettanto cialtrone, un momento di inconsapevole eroismo. Lui finisce davanti al plotone d'esecuzione, tu hai fatto qualche pompata in più rispetto ai tuoi colleghi, però sei riuscito a dire ho fatto il paracadutista. Massimo dell'Aquila, buongiorno. Oh, allora io prima di tutto buongiorno, complimenti per la trasmissione. Aspetta, devo dare il via 30 secondi. Ah, sì, okay. Sì. Massimo dall'Aquila. Sei pronto? Sei pronto? Io sono prontissimo. Sì. Allora vai, 30 secondi, parta adesso. Signora Margherita, io sono Alberto Sordi, quando vado al mare mi trasformo, quindi prendo le pistole dei miei bambini, pistole acqua, schizzo alle vecchie, alle signore anziane, oppure vado col pattino, vado fuori gli scogli, a un certo punto blocco qualcuno col pattino, lo sai che da qui non si può passare? No, c'è il divieto assolutamente, se è stato intravisto uno squalo, ma lei è della capitaneria, sì, io sto facendo dei controlli, e c'è un mio amico ogni volta fa, quanto rompile, squalo. Allora, in cosa sei Alberto Sordi? Nel tuo millantare atteggiamenti disinibiti, quando in realtà nulla a che fare con il tuo essere disinibito? No, io sono un disinibito, però quando vado lì devo rompere le scatole proprio in maniera, cioè mi diverte troppo rompere le scatole alle persone in generale, cioè come fa quando faceva la signora Margherita, cioè che stava sempre lì a dar fastidio, a punzecchiare. Vabbè, quello era grottesco, era l'amichetto della parrocchietta, voleva fare colpo su una ragazza non avendoci proprio il fisico. Ecco, evidentemente cercare di essere quello che non si è, non avendo il fisico, ma non rendendosi nemmeno conto. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Giovanni, tu dici che ci riesci a Mario a imbucarlo al ministero? E certo, ma che lo dubiti? Oh, io ho passato tutta la vita in quegli uffici. Mi conoscono tutti, mi stimano, mi apprezzano e se gli chiedo un favore me lo fanno. Primo, la gente per niente non fa mai niente per nessuno. Secondo, deve prima passare il concorso e mi hanno detto che è difficile. E terzo, ce ne saranno migliaia di giovanotti come lui a quell'esame. E lui riuscirà. Te lo dico io ci parlo stamattina stessa con Spaziani. Lo sai che ci diamo del tu. Eccolo. Buongiorno. Oh Mario, ti aspetta alle 11 precise all'ingresso del ministero. Allora. Gli hai preparato il vestito nuovo, quello marrone? È pronto, pure le scarpe gli ho lustrato. Mario, ti do la cravatta a bordeaux, quella a pois, che costa 4.000 lire. La prendo io, non ti preoccupare. Mi dai un po' di pane brustolito. Vedrai l'invidia lì al ministero quando ti vedono. Oh, mamma, mettigli un po' di soldi in tasca a sto ragazzo. Già fatto, gliel'ho messi nel vestito marrone. Mario, ha sentito. Allora, 800 24 00 24, abbiamo sentito una parte del Borghese piccolo, uno degli ultimi dei più attardati film di Alberto Sordi, che però è significativo anche di un'epoca. Una terribile storia di un piccolo borghese che addirittura entra nella massoneria per far lavorare il figlio, poi erano gli anni di piombo e dei rapinatori glielo ammazzano. Lui in maniera terribile dimostra quanto dietro l'apparente pacatezza di un uomo che ha sempre subito una sorta di Fantozzi, può esserci una crudeltà estrema, prende quel rapitore, lo rapisce, quel rapinatore lo rapisce, lo porta in una baracca in campagna dove c'era la moglie paralizzata dal dolore, e lentamente lo uccide strangolandolo con un fil di ferro, torturandolo, insomma una cosa atroce. Era la, diciamo, l'anticipazione, una sorta di furia piccolo borghese che oggi si manifesta in maniera molto esplicita attraverso la rabbia dei social, l'ignoranza che dimostra l'incapacità di vivere l'articolazione culturale ai tempi che si vivono. Beh, oggi vi propongo di raccontarmi come siete anche voi Alberto Sordi, e dovete farlo raccontando un episodio in cui siete stati Alberto Sordi, quando avete fatto una scena ridicola per evitare una pena, una multa, un rimprovero, e quando avete fatto gli sbruffoni, avete millantato di essere quello che non siete, quando siete stati umiliati, avete accettato l'umiliazione, quando avete fatto finta di essere intelligenti, di avere studiato, di avere i 4/4 di nobiltà sociale, senza averlo, improvvisando. Intanto ringrazio Peter Bescapè da Milano e Giorgio De Luca all'assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. 80024, in 30 secondi, Alberto da Milano, sei pronto? Buongiorno, io mi pronto? Rivedo. Vai, in... vai. Mi rivedo in detenuto in attesa di giudizio, perché nel 1980 sono stato arrestato, ho fatto 15 giorni in camera di sicurezza terribile e poi San Vittore 3 mesi, e tutto l'iter che Alberto Sordi fa vedere, la ciotola, l'ufficio matricola, la perquisizione corporale, eccetera, eccetera, io la rivivo masochisticamente ogni volta che fanno quel film. Pertanto Alberto Sordi per me mi riporta a quel brutto mese di aprile, e poi finito bene, però insomma, detenuto in attesa, ecco, di giudizio rappresenta è una circostanza, certo, è una circostanza dolorosissima. Ma in cosa ti sei sentito Alberto Sordi? Quella è una circostanza tragica, drammatica, in cui uno si può trovare. Mi sono sentito Alberto Sordi perché come lui ero innocente. Sì, ma essere innocente, come vivevi, diciamo, l'angoscia di essere pesce fuor d'acqua, quindi arrestato malissimo, non aver fatto perché nulla. Perché sei in un mondo terribile, il carcere è brutto per mille motivi, ma se uno è colpevole, se non è impazzito, che è causa del suo mal, pianga se stesso. Ma se uno è innocente, se ne fa un po' una ragione, ecco, diciamo, certo, si attrezza. Altrimenti uno la vive giornalmente, drammaticamente, legato ai ricorsi, alle istanze, ed è drammatica perché non c'è il senso di colpa. Se mi è andata male, vabbè, mi hanno messo in galera. Ma se uno è innocente, vive come vive Alberto Sordi, drammaticamente. Tra l'altro io ho fatto anche un periodo dove c'è stata una fuga famosa, pertanto la vita in carcere è stata molto difficile. Poi vabbè, meno male che... Quindi coinvolto anche in una rivolta senza avere da solo, naturalmente, la capacità di essere come gli altri, cioè di organizzarti per partecipare alla rivolta, quindi doppiamente, doppiamente vittima. Per partecipare alla rivolta bisogna essere dei duri, e io duro non lo ero, certo, certamente. Vittima del sistema giudiziario che ti aveva incolpato e incarcerato ingiustamente, e vittima dello stesso sistema carcerario, diciamo, antagonista, perché non avevi nemmeno la rudezza del carcerato capace di organizzare una rivolta. Molto chiaro. Marina, provincia di Monza Brianza, finalmente una donna. Ecco, Martina, sei pronta? O Marina? Marina? Marina o Martina? Marina? C'è Marina? Improvvisamente non sento nulla, non sento Marina. Vediamo se qualcuno mi dà un segnale, cosa succede. È caduta, vado col traffico, la fermiamoci col traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti, e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Melog. Tira giù quelle vesti. Che sono queste, signore? Tira giù le vesti. Non le tira giù, non le tira giù. Gente, passano le macchine. Ma che vergogna è? Brutta spiaggia. Leo da Vigliacco, che prima mi hai detto che tu mi aiutavi e invece ti sei messo contro di me, hai fatto un complotto, e allora se sei contro di me sai cosa ti dico? Che io lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo più di prima, lo amo, e per farti vedere che nessuno può competere con me, io vado lì, prendo quella per i capelli, quella stolta, la levo dal letto e mi ci metto io a letto lì con lui, sì, con lui. 800 24 0024. No, sto pensando che se qualcuno i veementi allineatori al pensiero politicamente corretto iconoclasti in questi giorni rivede questa scena, probabilmente getterà vernice anche sull'effigie di Alberto Sordi. È una scena terribile. Monica Vitti ammette Alberto Sordi di essere innamorata di un altro uomo, di un musicista. Lui fa finta di assecondarla cercando di aiutarla, poi quando lei glielo confessa sul litorale, mi sembra, di Ostia, la prende a cazzotti, la mena, si vede proprio il pugno che si chiude Alberto Sordi, la prende a cazzotti, la riempie di botte, lei finalmente dice non lo amo più. Beh, è una scena violenta, una sorta di preludio al femminicidio. Nessuno consiglia che in realtà questa scena al tempo era perfettamente normale, un uomo che menava la moglie perché minacciava tradimento era perfettamente normale, quindi probabilmente chi volesse essere Alberto Sordi potrebbe anche dire quella volta che ho preso a cazzotti mia moglie mi sentivo Alberto Sordi. Guardate com'è difficile poi ricontestualizzare la storia degli eventi. Allora abbiamo recuperato Marina dalla provincia di Monza. C'è Marina? Sì, buongiorno. Allora, pronta in 30 secondi, quando lei è stata sì. Alberto Sordi? Ok. Vada. Allora, ok, d'accordo, grazie. Allora, dovrebbe partire il timer, ma non parte. Vabbè, comincia a dire. Aspetta il timer? Sì, lo aspetto anch'io, non so perché non parte. Vabbè, intanto lo dica in 30 secondi, magari. Va bene, okay. Eccolo, arrivato. Allora, innanzitutto io sono molto giovane, sono molto di essere molto intelligente, anche spigliata con gli altri. Ho fatto commercio online, ho affrontato molte sfide, ho conosco tre lingue, ho passato l'ultima estate negli Stati Uniti, in Francia, a fare volontariato, ho fatto attivismo gay, ma il mio unico sogno è di fare la casalinga e di avere essere una mogliettina perfetta. E avere una casa che funziona, la cosa meno emancipata del mondo. Ecco, cosa c'è di Alberto Sordismo in questo? Cioè lei rappresenta, sì, diciamo, una donna che è baluardo di tutte le possibili declinazioni di essere una donna emancipata, che vive i tempi, si occupa di volontariato, fa attivismo gay, fa tutto quello che una donna oggi dovrebbe fare per sentirsi moderna, ma in sé cova l'animo di una Pia Fantozzi, di una Pina Fantozzi, una cosa del genere. Di una casalinga anni 50, che è assolutamente una cosa ridicola rispetto a tutte le aspettative che ci sono, rispetto a come deve essere una donna di successo oggi. Però scusi Marino, ma perché non lo fa? Troverebbe uno stuolo di uomini, non chiedo di meglio, averci una donna sottomessa, casalinga, che lava, stira e la sera ti infila le pantofole. Lo faccia, se la fa contenta lo faccia. Che problema c'è? Ma perché penso che sia compensato da una personalità in cui, cioè, da una parte mi piace l'idea di cucinare, di essere molto devota, però allo stesso tempo ho anche bisogno di un caratterino molto deciso, quindi è una specie di Se lei piace, sì, lei piace, è come quelli che si concedono ogni tanto, che ne so, una birrettina, uno, sì, sfizio, se lo conceda come sfizio, provi il brivido di trovarsi un umarell in canottiera e ciabatte che gli dice preparami la cena, che si mette davanti al televisore a guardare la partita e lei tutta contenta gli lava le mutande. Ci provi a farlo, lo provi a fare a tempo determinato. Cioè, c'è gente che si fa frustare, che va a fare le ammucchiate, lei il suo brivido sensuale questo, ma lo faccia, se la diverte, che male c'è? Se lei è consenziente e consapevole, non credo che il mondo combatta questo suo profondo essere personaggio onirico di un film di Alberto Sordi. Lo faccio per una settimana, poi se le fa schifo la lascia perdere, se le dà gusto faccia quello che dà gusto. Io penso che sia importante fare quello che ci fa star bene, non quello che bisogna fare. Però ha ragione lei, Alberto è come i figli di Alberto Sordi che mandano Sordi e la moglie a fare le vacanze intelligenti, alla fine lei diventa scultura contemporanea vivente quando lui va a comprargli il panino, ecco, prima che si trasformi anche lei in una grottesca rappresentazione di arte concettuale, provi un attimo cosa si prova a fare la minestra tutte le sere a un uomo che nemmeno ti guarda, al massimo ti sbatte sul tavolo, ti prende velocemente e poi se ne va a dormire. Remo da Firenze, sei pronto? Pronto? Sì, pronto. Oggi... Allora vai, sbrigati, forza, parti. E cosa devo dire? Buongiorno. Dunque, ha rappresentato l'Italia in una maniera particolarmente esagerata. L'unica cosa in cui si è visto veramente l'umanità di quest'attore, a giudizio mio ovviamente, è Il Maestro di Vigevano, dove ancora non aveva quel successo che poi gli ha consentito di fare dell'Italia una macchietta. La ringrazio, buongiorno, buonasera. Vabbè, ma non è che deve scappare, deve raccontare se stesso. Perché lei si sente in questo momento? Perché sto lavorando. Ho telefonato in un momento che ero in macchina, ora sono in studio semplicemente. Ah, quindi lei adesso ha a che fare, non può star con... Vabbè, la lascio libera. Lei piace Il Maestro di Vigevano, questa storia mesta di ingiustizia, che poi è una storia profondamente triste, e si sente probabilmente maggiormente rappresentato da questo film, che però ha una radice non tanto sordista, ma quanto, diciamo, in un filone letterario reale concreto. Devo dire, in conclusione, dalla scarsa attenzione che ha dato il pubblico a questo tipo di mia domanda, che è facile dire che bello Alberto Sordi, che bello rappresenta gli italiani, quanto è stupendo, fa una serie di macchiette e ci rappresenta tutti. Ma quando poi dobbiamo dire esattamente quanto noi siamo Alberto Sordi, troviamo grande difficoltà. Io l'ho fatto all'inizio, ho rappresentato il momento di massimo Alberto Sordismo della mia vita, che è stato fondamentale. Io probabilmente ho avuto possibilità di affrancarmi da una condizione disperata di provinciale senza prospettive, ma per colpa sua, perché era stato neghittoso negli anni in cui doveva formarsi, facendo un gesto eroico da Alberto Sordi. E io oggi sto qui davanti a questo microfono e ho dignità di parlare e di esprimermi perché sono stato Alberto Sordi. Per molti di voi è difficile ammettere, probabilmente non esisterà o non ci sarà stato, o non c'è stato lucidamente l'accettazione di essere stati Alberto Sordi. Vediamo Giulio da Varese, esco con lui, l'ultimo ascoltatore. Giulio, sei pronto? Prontissimo. Vai. Io mi rivedo tantissimo nel dottor Sersilli, nei primi anni della mia carriera, ero un medico e sbarcare il lunario riuscivo a fare anche tre sostituzioni di massimalisti contemporaneamente. Saltavo da un ambulatorio all'altro col motorino con mio amico complice che faceva da segretario, infermiera, preparava le ricette. Era uno stress mica da ridere, però sono riuscito a sopravvivere e a gestire per diverse estati 3-4 ambulatori contemporaneamente. Ecco Giulio, è importante perché, diciamo, la saga del dottor Terzilli, il medico della muta, era perfetto, era un momento in cui si stabiliva proprio il concetto di welfare in Italia, in cui il medico della mutua in realtà era un sordido arrivista che vedeva i mutuati come possibilità di guadagno, di accrescimento alla propria fama, e se li litigavano fra dottori, e tutto era basato sul lecchinaggio del primario, della possibilità di ereditare dai medici che andavano in pensione i propri mutuati. Vabbè, ha avuto coraggio di dirlo, che perlomeno la sua carriera di medico nasce come illuminata dalla figura del dottor Terzilli. Ci abbiamo provato, alla prossima, mica sempre va bene.